Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Dopo il lungo racconto delle campagne di guerra, il romanzo riprende il filo delle vicende di Pierre, che è diventato, dopo la morte del padre, uno dei giovanotti più ricchi di tutta la società russa, e dunque un partito assai appetibile. Subito il principe Vassili cerca di fare in modo che Pierre si fidanzi con sua figlia Elena, e riesce nel suo intento. Oggi vedremo invece i tentativi del principe Vassili per accasare bene anche il figlio Anatole. Il vecchio principe Nikolai Andreevich Balkonsky nel novembre del 1805 ricevette una lettera dal principe Vassili che l'informava del suo arrivo insieme col figlio. Il vecchio Balkonsky aveva sempre avuto una mediocre opinione del carattere del principe Vassili. Ora poi, dalle allusioni della lettera, aveva capito di che si trattava e la mediocre opinione sul conto del principe Vassili si mutò in un sentimento di malevolo disprezzo. Il giorno che doveva arrivare il principe Vassili, il principe Nikolai Andreevich era particolarmente scontento e di malumore. Tuttavia, alle 9, come al solito, il principe uscì a passeggiare nella sua pelliccia di velluto col colletto di zibellino e il berretto eguale. La vigilia era nevicato. La viottola per la quale il principe Nikolai Andreevich si dirigeva verso la serra era stata spazzata. Le tracce della scopa si vedevano sulla neve spazzata e la pala era infissa nel cumulo di neve friabile ammonticchiata ai due lati della viottola. Il principe attraversò la serra, il cortile e le fabbriche annesse, accigliato e silenzioso. Prima di pranzo, la principessina e Mademoiselle Bourienne, che sapevano che il principe era di cattivo umore, erano lì in piedi ad aspettarlo. Mademoiselle Bourienne, con un viso raggiante che diceva «Io non so nulla, io sono come sempre», e la principessina Maria, pallida, spaventata, con gli occhi bassi. La cosa più penosa di tutte per la principessina Maria era che ella sapeva che in questi casi bisognava comportarsi come Mademoiselle Bourienne, ma non poteva farlo. Il principe guardò il viso spaventato della figlia, sbuffò e sedette a tavola. Il piatto non gli parve pulito, indicò una macchia e lo buttò via. La piccola principessa non era indisposta, ma aveva una così invincibile paura del principe che, avendo sentito che egli non era di buon umore, aveva risoluto di non mostrarsi. «Temo per il bambino», aveva detto a Mademoiselle Bourienne. «Dio sa cosa può capitare per uno spavento». In generale, la piccola principessa viveva a Lisiagori con un continuo sentimento di paura verso il vecchio principe e anche di antipatia, della quale non aveva coscienza perché la paura soverchiante non gliela faceva sentire. Anche da parte del principe c'era antipatia, ma era soffocata dal disprezzo. La principessa, abituatasi alla vita di Lisiagori, aveva posto un affetto particolare a Mademoiselle Bourienne. Passava le giornate con lei, la pregava di farle compagnia la notte e spesso le parlava del suocero e lo giudicava. La sera giunse il principe Vassili. I cocchieri e i domestici gli andarono incontro sul viale e con grida condussero le sue varie slitte verso un'ala della casa, per la strada ricoperta apposta di neve. Al principe Vassili e ad Anatole furono assegnate due camere separate. Anatole, toltasi la giubba, stava seduto, con le mani sui fianchi, davanti alla tavola, dalla quale, sorridendo, fissava distrattamente un angolo coi suoi grandi e begli occhi. Tutta la sua vita egli la considerava come un divertimento ininterrotto che qualcuno, chissà perché, si era assunto di combinare per lui. Allo stesso modo considerava ora quella sua visita a un vecchio rabbioso e a una ricca e mostruosa ereditiera. Tutto questo poteva riuscire, secondo le sue congetture, molto bello e molto divertente. «E perché poi non sposarla, se è tanto ricca? Questo non guasta mai», pensava Anatole. Si fece la barba, si profumò con una cura e un'eleganza che per lui erano divenute abitudine e, con l'espressione di conquistatore bonario che gli era connaturata, tenendo alta la sua bella testa, entrò nella camera del padre. Intorno al principe Vassili si affaccendavano per vestirlo i suoi due camerieri. Egli stesso si guardava intorno animatamente e fece un allegro cenno del capo al figlio che entrava, come se dicesse «Sì, così mi occorre che tu sia». «No, senza scherzi, babbo, è molto orrenda, eh?» egli domandò in francese, come seguitando un discorso fatto più volte durante il viaggio. Basta, sciocchezze. Soprattutto cerca di essere rispettoso e assennato davanti al vecchio principe. La piccola principessa e Mademoiselle Bourienne avevano già ricevuto dalla cameriera Masha tutte le notizie necessarie. Che il figlio del ministro era un bel giovane colorito, dalle sopracciglia nere, e che il babbo a stento trascinava le gambe per le scale, mentre lui, come un'aquila, gli correva dietro saltando gli scalini a 3 per volta. Ricevute queste informazioni, la piccola principessa e Mademoiselle Bourienne, le cui voci si sentivano discorrere animatamente fin dal corridoio, entrarono nella camera della principessina Maria. La principessina Maria si sentiva offesa nel sentimento della propria dignità per l'agitazione in cui la metteva l'arrivo del pretendente annunziatole, e tanto più si sentiva offesa vedendo che le sue amiche non supponevano nemmeno che potesse essere altrimenti. Dire loro come si vergognasse per sé e per loro significava lasciar vedere la sua agitazione. Inoltre, rifiutare di acconciarsi come esse le proponevano avrebbe provocato celi e insistenze prolungate. Ella si fece di fiamma. I suoi bellissimi occhi si offuscarono, il suo viso si coprì di macchie, e con quella brutta aria di vittima che così spesso aveva sul volto, ella si abbandonò in potere di Mademoiselle Bourienne e di Lisa. Le due donne si preoccuparono in tutta sincerità di farla bella. Ella era così brutta che a nessuna delle due poteva venire il pensiero di rivaleggiare con lei. Perciò, in tutta sincerità, con quella ingenua e ferma persuasione delle donne che il vestito può abbellire la persona, si misero a vestirle. «No, davvero, ma buona mia, questo vestito non è bello», diceva Lisa, guardando da lontano e di fianco la principessina. «Di che ti portino il tuo vestito massacà? Davvero? Pensa che forse si decide la sorte di tutta la tua vita. Questo è troppo chiaro. Non ti sta bene, no, non ti sta bene». Quel che non stava bene non era il vestito, ma il viso e tutta la figura della principessina. Ma questo non lo capivano Mademoiselle Bourienne e la piccola principessa. Pareva loro che, se le avessero messo un nastro azzurro nei capelli pettinati in su e lasciato cadere una sciarpa azzurra sul vestito marrone, eccetera, tutto sarebbe andato bene. Esse dimenticavano che non poteva cambiare la faccia spaventata e il personale della principessa, e che quindi, per quanto cambiassero la cornice e l'ornamento di quel volto, il viso medesimo rimaneva sempre squallido e brutto. Dopo 2 o 3 tentativi, ai quali la principessina Maria si sottomise docilmente, quando fu pronta, pettinata all'insù, pettinatura che le cambiava assolutamente il viso e la imbruttiva, con la sciarpa azzurra e il vestito massacà, la piccola principessa le girò intorno 2 volte, qua accomodando con la manina una piega del vestito, là tirando un po' la sciarpa, e la guardò, inclinando il capo ora da una parte, ora dall'altra. Mademoiselle Bourienne e la piccola principessa dovettero confessarsi che la principessina Maria in quel modo era molto brutta, più brutta che mai. Ma era troppo tardi. Ella le guardava con un'espressione che esse conoscevano, un'espressione triste e pensierosa. Questa espressione non ispirava loro timore, sentimento che la principessina Maria non ispirava a nessuno. Ma esse sapevano che, quando sul suo viso compariva quell'espressione, ella era silenziosamente, ma irremovibilmente ferma nelle sue decisioni. «Vi cambierete, vero?» disse Lisa. E siccome la principessina non rispose nulla, Lisa uscì dalla stanza. La principessina Maria rimase sola. Essa non soddisfece il desiderio di Lisa, e non soltanto non cambiò la sua pettinatura, ma neppure si guardò nello specchio. Abbassò inerte gli occhi e le braccia e rimase a sedere in silenzio, pensierosa. Si immaginava un marito, un uomo, un essere forte, potente, dotato di un fascino incomprensibile che la trasportava all'improvviso nel suo mondo del tutto diverso e felice. Si immaginava, proprio contro il suo seno, un bambino suo, come ne aveva visto uno il giorno innanzi alla figlia della nutrice. Il marito stava lì accanto e li guardava teneramente, lei e il bambino. «Ma no, questo è impossibile. Io sono troppo brutta», pensava. «Il tè è servito. Il principe verrà subito», disse dalla porta la voce della cameriera. Ella si riebbe ed ebbe terrore di quello che aveva pensato. e prima di andare giù si alzò, andò nel suo oratorio e, fissando lo sguardo sul viso annerito di una grande immagine del Salvatore illuminata dalla lampada, ristette là innanzi, giungendo le mani per qualche minuto. Nell'anima della principessina Maria era un dubbio tormentoso. Era possibile per lei la gioia dell'amore, dell'amore terreno per un uomo? Nelle sue fantasticherie intorno al matrimonio, la principessina Maria sognava anche la felicità familiare e i bambini, ma il principale, il più forte e il più nascosto dei suoi sogni era l'amore terreno. Questo sentimento era tanto più forte quanto più ella si sforzava di nasconderlo agli altri e anche a se stessa. «Dio mio», diceva, «come reprimere nel mio cuore questi pensieri diabolici? Come posso sottrarmi per sempre ai pensieri cattivi per compiere tranquillamente la tua volontà?» Quando la principessa Maria entrò nel salotto, il principe Vassili e il figlio erano già là, che discorrevano con la piccola principessa e con Mademoiselle Bourienne. Per primo le si accostò il principe Vassili, ed ella baciò la testa calva, chinatasi sulla sua mano, e alle parole di lui rispose che, al contrario, se ne ricordava benissimo. Poi le si avvicinò Anatole. Ella sentì soltanto una mano morbida che aveva preso con forza la sua e sfiorò appena la fronte bianca, sulla quale erano impomatati dei bellissimi capelli biondi. Quando finalmente gli gettò uno sguardo, la sua bellezza la colpì. Anatole, col pollice della mano destra dietro il primo bottone dell'uniforme, col petto sporgente e la schiena indentro, dondolando una gamba distesa e inclinando leggermente il capo, guardava la principessina in silenzio, tutto allegro e certo, senza punto pensare a lei. La principessina, come per fargli vedere che non osava neppure pensare a intrattenerlo, si rivolse al vecchio principe. La conversazione andava innanzi generale e animata, grazie alla vocina e all'abruzzo ornato di baffetti che si sollevava sui bianchi denti della piccola principessa. Mademoiselle Bourienne si permise di domandare se Anatole aveva lasciato Parigi da molto tempo e se gli era piaciuta quella città. Anatole rispose molto volentieri alla francesina e, sorridendo e guardandola, si mise a discorrere con lei della sua patria. Vedendo la graziosa Bourienne, Anatole aveva pensato che anche là, a Lisia Gori, non si sarebbe annoiato. Il vecchio principe si vestiva lentamente nel suo studio, accigliato e pensando a quel che doveva fare. L'arrivo di quegli ospiti lo aveva irritato, perché sollevava nell'animo suo una questione non mai decisa e continuamente soffocata. Una questione riguardo alla quale il vecchio principe voleva sempre ingannare se stesso. E la questione era questa. Si sarebbe mai deciso a separarsi dalla principessina Maria e a darle marito? Vivere senza la principessina Maria era cosa inconcepibile per il principe Nikolai Andreich, malgrado che egli avesse l'aria di apprezzarla poco. E perché dovrebbe maritarsi? Pensava. Certamente sarebbe infelice. Prendiamo Lisa con Andrei? È forse contenta lei della sua sorte? E chi la prenderebbe per amore? È brutta, impacciata. La prenderebbero per le sue relazioni, per la sua ricchezza. E non ci sono forse zitelle? Sono ancora più felici. Così pensava, vestendosi, il principe Nikolai Andreich. E intanto la questione, sempre differita, esigeva un'immediata decisione. Il principe Vassili aveva condotto il figlio con l'evidente intenzione di fare una proposta di matrimonio e probabilmente oggi o domani avrebbe preteso una risposta precisa. Il nome, la posizione nel mondo erano convenienti. «Beh, è quel che vedremo», disse ad alta voce. «È quel che vedremo». E come sempre, entrò nel salotto a passi risoluti, gettò una rapida occhiata a tutti, notò anche il cambiamento di vestito della piccola principessa e il nastro della Bourienne e l'orribile pettinatura della principessina Maria e i sorrisi della Bourienne e di Anatole e l'isolamento della sua figliola nella conversazione generale. «Si è agghindata come una sciocca», pensò guardando rabbiosamente la figlia. «Non si vergogna, e lui non vuol neppure accorgersi di lei». Prese il principe Vassili a braccetto e lo condusse nello studio. Il principe Vassili, rimasto a quattro occhi col vecchio principe, subito gli parlò del suo desiderio e delle sue speranze. «Che cosa credi?» disse con rabbia il vecchio principe. «Che io la tenga prigioniera? Che non mi possa staccare da lei? Guarda che cosa si immaginano!» proferì rabbioso. «Per me anche domani. Soltanto ti dirò che voglio conoscere meglio mio genero. Tu conosci i miei principi, tutto apertamente. Domani la interrogherò in presenza tua. Se lei vuole, che gli rimanga pure qui un po' di tempo. Rimanga pure qui, vedrò. E io vi parlerò francamente, disse il principe Vassili, col tono di un uomo astuto che si è convinto dell'inutilità dell'astuzia davanti alla perspicacia del suo interlocutore. Tanto voi leggete dentro alle persone. Anatole non è un genio, ma è onesto e buon ragazzo, un ottimo figlio e un ottimo parente. Beh, va bene, vedremo. Come sempre accade alle donne sole, che per lungo tempo sono vissute senza la compagnia degli uomini, tutte e tre le donne che erano in casa del principe Nikolai Andreich, all'apparire di Anatol, avevano sentito allo stesso modo che, fino a quel momento, la loro vita non era stata vita. La facoltà di pensare, di sentire, di osservare, si era istantaneamente decuplicata in tutte e tre, come se la loro vita, che era scorsa fino allora nelle tenebre, si fosse a un tratto illuminata di una luce nuova, piena di significato. La principessina Maria non pensava più al suo viso né alla sua pettinatura, non se ne ricordava neppure. Il bel viso aperto dell'uomo, che forse sarebbe diventato suo marito, assorbiva tutta la sua attenzione. Egli le pareva buono, coraggioso, risoluto, virile e magnanimo. Mille sogni di futura vita familiare nascevano di continuo nella sua immaginazione. Mademoiselle Bourienne, portata anche lei dall'arrivo di Anatole a un alto grado di eccitazione, pensava in altro modo. Naturalmente, la bella fanciulla, senza una posizione precisa nel mondo, senza parenti, senza amici, perfino senza patria, non pensava di passare la sua vita alle dipendenze del principe Nikolai Andreich, a fare da lettrice a lui e da amica alla principessina Maria. Mademoiselle Bourienne da un pezzo aspettava il principe russo che sapesse, di colpo, apprezzare la sua superiorità sulle principessine russe, brutte, malvestite, impacciate, e si innamorasse di lei e la portasse via. Ed ecco che questo principe russo era finalmente arrivato. Egli l'avrebbe rapita e poi l'avrebbe sposata. Così si costruiva nella testa di Mademoiselle Bourienne tutta la sua futura storia, mentre ella discorreva con lui di Parigi. La compagnia, dopo il tè, passò nella stanza dei divani e la principessina fu pregata di suonare il cembalo. Anatole, appoggiandosi sul gomito, stava davanti a lei, accanto a Mademoiselle Bourienne, e i suoi occhi, ridenti e allegri, guardavano la principessina Maria. La principessina Maria sentiva su di sé quello sguardo, con un'emozione tormentosa ma piena di gioia. La sua sonata preferita la trasportava nel mondo più schiettamente poetico, e quello sguardo che sentiva su di sé dava a questo mondo anche maggiore poesia. Lo sguardo di Anatole, però, benché fisso su di lei, non era diretto a lei, ma ai movimenti del piedino di Mademoiselle Bourienne, che in quel momento egli toccava col piede. Tutti si separarono e all'infuori di Anatole, che si addormentò appena si mise a letto, nessuno dormì a lungo quella notte. Possibile che diventi mio marito proprio quest'uomo estraneo, bello e buono, soprattutto buono, pensava la principessina Maria, e la salì una paura che non aveva quasi mai provata. Temeva di guardarsi intorno, le pareva che ci fosse qualcuno dietro al paravento, in un angolo buio, e questo qualcuno era lui, il diavolo, e lui. Quell'uomo dalla fronte bianca, dalle sopracciglia nere e dalla bocca rossa. Sonò per chiamare la cameriera e la pregò di coricarsi in camera sua. Mademoiselle Bourienne quella sera passeggiò a lungo nel giardino d'inverno, aspettando invano qualcuno. La piccola principessa brontolava con la cameriera perché il letto non era fatto bene. Non poteva star coricata né sul fianco né bocconi. Si sentiva pesante e a disagio. Il ventre le dava noia. Le dava noia più che mai proprio quella sera, perché la presenza di Anatole l'aveva riportata più vivamente ad altri tempi, quando non era in quello stato e si sentiva sempre leggera e allegra. Eppure il vecchio principe dormiva. Si presenta il primo venuto, e lei dimentica il padre e ogni cosa, e scappa su e si pettina e scodinzola e non è più lei, tutta contenta di piantare il padre. E sapeva che io me ne sarei accorto. Non vedo forse che quello stupido guarda soltanto la Bourienne, bisogna mandarla via. E come non avere abbastanza orgoglio da capirlo? Se non ha orgoglio per sé, potrebbe almeno averne per me. Quando la principessina alla solita ora andò dal padre, Mademoiselle Bourienne si trovò con Anatole nel giardino d'inverno. La principessina Maria si avvicinava quel giorno con un particolare batticuore alla porta dello studio. Le pareva che non soltanto tutti sapessero che in quel giorno si sarebbe decisa la sua sorte, ma sapessero pure quello che ella ne pensava. Il vecchio principe quel mattino fu straordinariamente tenero e premuroso verso la figlia. Questa espressione di premura la principessina Maria la conosceva bene. Era la stessa espressione che egli aveva sul viso nei momenti in cui le sue mani secche si serravano dal dispetto perché la principessina Maria non capiva un problema di aritmetica e lui, alzandosi, si allontanava da lei e a voce bassa ripeteva più volte le stesse parole. Egli andò subito dritto al fatto e cominciò il suo discorso dandole del voi. «Mi hanno fatto una proposta riguardo a voi», disse con un sorriso affettato. «Credo che avrete indovinato», proseguì, «che il principe Vassili è venuto qua e ha condotto con sé il suo alunno». Chissà perché il principe Nikolai Andreich chiamava alunno Anatole. «Non certo per i miei begli occhi. Ieri mi hanno fatto una proposta riguardo a voi e siccome voi conoscete i miei principi, io mi sono rimesso a voi». La principessina capiva che il padre non vedeva di buon occhio la cosa, ma in quello stesso momento le venne il pensiero che ora o mai più si sarebbe decisa la sorte della sua vita. Abbassò gli occhi per non vedere quello sguardo e disse: «Desidero soltanto una cosa, fare la vostra volontà. Ma se dovessi esprimere il mio desiderio...» Non ebbe il tempo di finire. Il principe la interruppe. «Benissimo!» urlò. «Ti prenderà con la tua dote e nello stesso tempo avrà anche Mademoiselle Bourienne. Lei sarà la moglie e tu...» Il principe si fermò. Si era accorto dell'impressione che queste parole avevano fatto sulla figlia. Ella aveva abbassato il capo e stava per piangere. «Su, su, scherzo, scherzo», disse egli. «Ricordati soltanto una cosa, principessina. Io ho per principio che una fanciulla ha il pieno diritto di scegliere e te ne do la libertà. Lui lo fa perché glielo ordinano. Sposerebbe non soltanto te, ma chiunque. Inoltre tu sei libera di scegliere. Vai in camera tua, rifletti e fra un'ora vieni da me e davanti a lui di sì o no». La sua sorte era decisa, ed era decisa felicemente. Ma ciò che il padre aveva detto di Mademoiselle Bourienne, quell'insinuazione era orribile. Non era vero, ammettiamo, ma tuttavia era orribile. Ella non poteva non pensarci. Camminava dritto davanti a sé per il giardino d'inverno, senza vedere e senza udire nulla, quando a un tratto il noto sussurrio della voce di Mademoiselle Bourienne la riscosse. Alzò gli occhi e a due passi da sé vide Anatole che abbracciava la francesina e le sussurrava qualcosa. Anatole, con un'espressione appassionata sul suo bel viso, si voltò a guardare la principessina Maria e in un primo istante non lasciò la vita di Mademoiselle Bourienne, che non aveva veduto la principessina. «Chi è? Perché? Aspettate!» pareva che dicesse il viso di Anatole. La principessina Maria li guardava in silenzio. Ella non poteva capire. Finalmente Mademoiselle Bourienne diede un grido e scappò via. Anatole, con un allegro sorriso, si inchinò alla principessina Maria come se la invitasse a ridere anche lei di quello strano caso e, stringendosi nelle spalle, andò verso la porta che conduceva al suo appartamento. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.